Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, buonasera. Un saluto affettuoso come sempre da parte di Gesi e di Antonio. Antonio, 69 anni fa c'era stato il bombardamento il 7 aprile. Tragico evento. Vabbè, dai, tanti anni fa comunque. Va bene, allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E a tal proposito ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Sì, a tutti e due. Allora, stasera, Antonio, abbiamo due ospiti non virtuali, ma proprio presenti in carne e ossa. Esatto. Abbiamo il dottor Tony Basso e poi abbiamo l'architetto Giorgio Fantin. Beh, intanto cominciamo col primo brano. Ricordiamo Enzo Iannacci, che è scomparso qualche giorno fa, e di lui ascoltiamo Messico e nuvole. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico a nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. A me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché? Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento sa già che l'armonica, che voglia di piangere. Torno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste sono situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico è nuvole. Eccoci di nuovo in studio, e è arrivato il primo ospite in studio ed eccoci anche stasera col nostro dottor Tony Basso, che ci sta raccontando la storia di Treviso, e noi lo salutiamo con vero calore e le diamo il bentornato. Buonasera, bentornato. E stasera di che cosa ci parlerà? Ma mi pare che la volta scorsa ci eravamo lasciati con un discorso sulla ferrovia e sui motivi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno indotto i bombardamenti su Treviso, proprio perché era un nodo ferroviario molto importante nei rifornimenti della linea di difesa, la linea Gustav sul fronte dell'Italia centrale. Vorrei ricordare che l'avvento della ferrovia, a parte tutte le considerazioni che forse abbiamo già fatto riguardo alla velocità, all'autonomia del trasporto, alla sicurezza del viaggio attraverso la strada ferrata anziché il trasporto su strada, ha spostato l'impianto della stazione ferroviaria nella posizione dove tuttora si trova, l'asse di penetrazione verso il centro della città. Una volta la via tradizionale che collegava Treviso con il territorio provinciale, che era soprattutto quello esteso a nord di Treviso, era la porta di San Tommaso ed eventualmente quella di Santi 40. Quindi la strada che veniva dal nord, la via Ungaresca, la porta di San Tommaso e gli alberghi si trovavano in quella zona, per esempio appena all'ingresso dove adesso c'è la sede dell'amministrazione della casa di ricovero, la casa Salce, era sede di un albergo che si chiamava Leon Bianco, e adesso riusciamo a capire perché questo nome di Leon Bianco, adesso che la parete, la facciata esterna della porta San Tommaso è stata tutta ripulita e si vede molto bene questo leone che ha questo aspetto bianco. E quindi l'albergo si era chiamato Leon Bianco. Dopo c'è stata tutta l'invasione delle cose d'oro, come la Stella d'Oro, eccetera, e quindi si è chiamato Leon d'Oro. Ma dopo la via Sant'Agostino, intanto il mercato subito all'interno della porta di San Tommaso, e poi la via Sant'Agostino dove c'erano gli alberghi, la locanda dell'imperatore, l'albergo, e poi lungo nella quella che era stata la sede del collegio Somasco a Sant'Agostino, è diventata in un primo momento la questura della città, perché bisognava appunto collocare questi organi istituzionali nelle posizioni strategicamente più significative. Poi l'ufficio postale, la posta si trovava in quella località che ancora adesso qualcuno chiama le Poste Vecchie, cioè all'angolo tra la via Sant'Agostino e la via Carlo Alberto, quindi era, e dopo la strada proseguiva per San Leonardo, eccetera eccetera. Quindi la penetrazione verso il centro della città veniva soprattutto da quella parte là. Certamente i collegamenti che prima della ferrovia Treviso ebbe con Venezia erano praticati attraverso il terraglio con l'ingresso dalla porta Altinia, che adesso è soltanto un piccolo passaggio pedonale, mentre c'era un ponte stradale che consentiva l'ingresso da quella parte della città. Mi pare anche però che ci fosse un albergo da quelle parti lì, forse, che si chiamava Stella d'Oro. Beh, quello venne appunto, sorse come pure il Baglioni, sorsero allorché venne a costituirsi questa via di ingresso alla città che partiva dalla stazione ferroviaria, e quindi c'era anche per esempio un altro albergo, era l'albergo al campanile che era presso poco davanti alla chiesa di San Martino. Poi c'era nel 1872 venne fatta una, subito dopo l'Unità d'Italia, venne fatta una specie di fiera campionaria in un edificio che era stato precedentemente la sede di una caserma di artiglieria veneziana, e divenne poi la sede di questa esposizione regionale del 1872, e dopo lì in quell'edificio successivamente adattato e modificato prese sede la Camera di Commercio. Proprio tutto questo ci sta a indicare come proprio era diventato il corso, cioè la strada principale per entrare in città era quella dalla stazione ferroviaria, il ponte San Martino, il corso che allora si chiamava via Vittorio Emanuele, adesso è diventato del Popolo, e quindi la via 20 settembre si arrivava in città. Un'altra cosa io volevo chiedere, io ricordo che c'era una stazioncina a Porta Santi 40. La stazionetta? Sì, una stazioncina. Sì, ma era anche... quella è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto sostenuta dalla Piani, che aveva il suo stabilimento nella zona dell'Eden, e quindi sollecitò la costruzione di una stazione ferroviaria per i rifornimenti, che doveva soprattutto servire per i rifornimenti durante la Prima Guerra Mondiale, e venne costruita anche una linea ferroviaria che doveva collegare Treviso a Ostiglia. A di Mantova? E appunto per i rifornimenti che dovevano arrivare a Treviso. L'Eden, abbiamo parlato dell'Eden, e questo ci offre l'occasione per dire come della stazione ferroviaria, a partire dal 1910, si diramarono due linee tramviarie. La prima linea del 1910, percorrendo sempre questa strada principale, partiva dalla stazione dalla parte dove adesso c'è la biglietteria degli autobus, più o meno percorreva i giardini, l'ingresso della città, della barriera Vittorio Emanuele, e quindi il corso Vittorio Emanuele, l'attuale corso del Popolo, come diciamo, e su per la via attuale Martiri della Libertà, sì, che una volta si chiamava via Re Umberto, raggiungeva la piazza di San Leonardo, e quindi per Sant'Agostino la piazza del Grano, e andava fino a Sant'Artemio. Questa era la linea tramviaria numero uno. La linea numero due, che venne istituita l'anno dopo, partiva sempre dal piazzale della stazione, ma dalla parte opposta, cioè verso l'imbocco di del viale Trento Trieste, dove c'era un caffè, il caffè Passuello, che era un luogo di ritrovo delle persone che dovevano aspettare degli ospiti, oppure era la meta di una passeggiata che i trevigiani facevano per andare alla stazione per vedere il treno, perché costituiva una attrattiva a quei tempi. A che altezza era di viale Trento Trieste questo bar? Era quasi all'inizio, più o meno. Adesso mi pare che c'è una fermata dell'autobus. C'è l'Antoniana, mi pare che ci sia, la banca Anton Veneta. Ecco, questo binario si collegava subito, prima di entrare in città, si collegava a quello della linea numero 1 e proseguiva fino al bivio dei telefoni, dove c'è il palazzo dei telefoni, e anziché andare come faceva la linea 1 verso San Leonardo, girava per via 20 settembre, attraversava la piazza dei Signori, Calmaggiore, e quindi la via Canova, e andava a Porta Santi 40, andava per il Borgo Cavour a Porta Santi 40 fino all'Eden, e dopo, arrivata all'incrocio dell'Eden, girava verso la stazione ferroviaria, come abbiamo detto, e c'era la stazione di Porta Santi 40, così era il titolo che aveva quella stazione. So che quando si veniva da Castelfranco, da Vedelago, c'era una fermata. Ma c'era anche la linea dello Stiglia, che per la curiosità ricordiamo che la linea non era stata ufficialmente soppressa, perché finita la guerra era cessata la Prima Guerra Mondiale, la necessità di questa linea, però figurava sempre nell'orario ferroviario. Non solo, ma quando due volte all'anno cambiavano gli orari ferroviari, cambiavano anche gli orari di questa linea ferroviaria inesistente, che adesso recuperare, in via di recupero per una pista ciclabile, molto importante. E cosa collegava sta via Ostiglia, in sostanza? Andava a Grisignano di Zocco, vicino a Padova, e poi andava giù per il Mantovano. Ma poi argomento di molte discussioni è stata anche la istituzione di una terza linea tramviaria, che doveva collegare il sobborgo di Fiera con il centro cittadino. il capolinea di questa tramvia era alle Poste Vecchie, come abbiamo detto, cioè all'inizio di via Carlo Alberto, percorreva tutta la via Carlo Alberto, usciva dalla porta Carlo Alberto, passava per la via Viale 4 Novembre sotto la ferrovia e si avviava verso la fiera a capolinea a Porto di Fiera. Sì, perché se non era raggiungere la fiera. Si narra che quando fu costruita la linea ferroviaria non fosse stato sufficientemente tenuto conto dell'altezza che il tram chiedeva per passare sotto la ferrovia, cioè avevano calcolato l'altezza del tram era tale e quindi la strada fu un po' affondata ribassata. Per consentire questo transito, ma non era stato calcolato che il tram aveva la stanga del trolley per collegarsi alla linea aerea di alimentazione elettrica e si narra che l'insuccesso clamoroso alla cerimonia di inaugurazione di questo inconveniente abbia indotto il progettista al suicidio. Io la racconto così mamma come l'ho sempre sentita. Sì, siamo nel 1928. Sì, insomma. Questo però ha comportato questi tram un notevole disagio, specialmente in alcuni posti della città, perché doveva fare il conto con un traffico veicolare che andava intensificandosi. Per cui non era possibile che il tram si spostasse per lasciare passare un veicolo di una certa stazza che proveniva in senso contrario, perché il percorso del tram era vincolato dalla rotaia e quindi per esempio una strettoia era a fianco del battistero del Duomo. E lì c'erano degli edifici addossati al battistero che sporgevano e che furono demoliti negli anni 30 per consentire un agevole transito del tram. Nel 1938, ricorrendo i 20 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori veneti, che erano stati vittima soprattutto della guerra, furono in qualche maniera indennizzati dallo Stato, ma questo lo era fatto per anche ragioni politiche, con dei finanziamenti straordinari che consentirono di ovviare, per esempio, fra le altre cose, a questi inconvenienti del traffico. E il tram fu eliminato e sostituito da linee di autobus. E quindi c'erano questi autobus che coprivano gli stessi percorsi, cioè la linea 1 che andava a Sant'Artemio, la linea 2 e 3 che venne poi unificata con un'unica corsa che dalla fiera, passando per il centro, andava all'Eden. E nel 1938 è stato un anno politicamente molto significativo, perché tra l'altro è stato l'anno delle leggi che hanno penalizzato gli ebrei, per esempio, nell'accesso ai luoghi pubblici, l'insegnamento, per esempio, ma anche le professioni, eccetera. Furono fatte queste elargizioni, ci furono dei giri di propaganda di Mussolini, che venne anche a Treviso nel 38, ma mentre in tutte le altre città del Veneto furono fatte inaugurare dal Duce le case del fascio, a Treviso, per l'abilità dell'organizzatore, fu inaugurata una mostra delle arti e tradizioni popolari a Villa Margherita, quindi non di taglio prettamente fascista, politico, ma culturale. E l'autore di questa operazione è stato Beppi Mazzotti. Ah, grande, anche questo va scritto a suo merito. Ormai abbiamo terminato il nostro spazio, la nostra passeggiata, che è sempre estremamente interessante. Il nostro dottore ha anche un'esposizione molto limpida. Esattamente. Tutti tutti la decantano. Sì. Dottore, allora noi ci troviamo la prossima volta. Buonasera. Grazie di tutto. Grazie buonasera. A voi. Bene, ringraziamo ancora il dottor Tony Basso e andiamo con la seconda canzone in programma, che è cantata da Ornella Vanoni, Anche se. Anche se sei stato di un'altra, se le hai detto le stesse parole che tu dici a me ogni giorno, ogni giorno, ogni notte. Anche se sei stato di un'altra, se hai tremato alle sue carezze, come tremi oggi alle mie, ogni giorno, ogni notte. Ma io non voglio chiederti niente, non voglio più sapere niente, ho bisogno di amarti per vivere, ho bisogno ogni giorno di te. Anche se sei stato di un'altra, ho bisogno lo stesso di te. E non mi importa di sapere altro, la vita non ha ieri ed il domani è già qui. Siamo di nuovo in studio e con lo secondo ospite che è arrivato di corsa, e presentiamo l'architetto Giorgio Fantin. Buonasera. Buonasera Giorgio. Camminando. Beh dai, facciamo un po' di folklore anche noi. Ecco. Allora, caro architetto, bentornato intanto. Grazie, bentornato. È sempre un piacere. Anche voi vi ho rivisto volentieri. Oh, meno male. E di stasera di che cosa ci parlerà? Perché so che lei ha sempre tantissimi argomenti. Di tutto quello che c'è da parlare siamo qua per capire. Allora. Ma dovessimo parlare per prima cosa del nuovo Papa. Ah, sì. Che si chiama Giorgio. Jorge, Giorgio. Giorgio Francesco, sì. Chiama Jorge. Jorge. Beh, Jorge. È mio amico, faremo festa di Giorgi, che possiamo mandare a Giorgio Napolitano una cartolina ogni anno. Giorgio si chiama? Bergoglio, Giorgio. Jorge, sì. A me piace tanto questo Papa, è così dolce. Adesso così... piace a tutti perché ha fatto delle cose che gli altri Papi non hanno mai provato anche a farle. Forse Giovanni... Probabilmente la temperie sociale Giovanni, è tale forse... che ha magari anche favorito questo, sì, questo sì, cambio sì. Di gli passo. Gli altri erano, diciamo, più papi, Papa Giovanni e Papa sto qua sembrerebbe che sia, che ha fatto una firma questo su un braccio di una bambina. sul gesso di una bambina, sì, esatto. Mi ricordo io qualche... cosa che fa autografo, che ho fatto cambiare il tempo che giocavo, e mi vergognavo a farlo, mi domandava se per cosa voglio un autografo da chissà per cosa. E invece pensa a sta bambina che si attagliare alto, sarà orgogliosa, sarà diventata una reliquia dopo. Ma sapete che anch'io ho manifestato il desiderio di conoscere questo Papa qua proprio personalmente. Non sono mai andata, sono andata a Roma, ma veramente andrei volentieri a conoscerlo, perché mi ispira veramente tanto. Ma credo che si muoverà sulle nostre città, penso che andrà allora tanto all'estero, credo che faccia qua, farsi vedere anche questo argentino della Pampas, a fine del mondo lei, di estrazione piemontese, di estrazione piemontese, però parla bene l'italiano, eh? Parla bene, qualche volta si sente che c'è qualche vocabolo un po', ma insomma, ma quella dolcezza così che ti ispira fiducia, ti dà tranquillità, sì, tranquillità proprio. Questa qua ispira. Vedremo adesso, se mi auguro che tutto si metta a posto qua in Italia, perché meglio che di politica non stiamo parlando. Mamma mia, per carità, ormai è diventata una cosa... Argomenti lacrimevoli, diciamo. Ma le lacrimevoli, perché mi essa destra, di sinistra, centro, lato, qua così, mi parerebbe fin possibile che mi riesce a fare una cosa di ogni gruppo, votarla e andare avanti, perché occorre 10 cose, 10 gruppi, 10... Questo è il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, Palleschi e Piagnoni, Bianchi e Neri, Capuletti e Montecchi, la divisione dell'atomo è niente in confronto alla divisione Solo che siamo ormai veramente, se non sì, si decidono... Non, abbiamo esagerato, largamente. Secondo me sì, veramente, e stiamo esagerando, perché a questo punto... Credo che tutti che tengano un posto per Cepaschei. Sì, però... Quindi credo solo quello, perché no. Ad altro non c'è religione. Mala, come si diceva una volta, mala tempora corrunta. Bravi. E dopo, dopo del Papa, però, mi piacerebbe parlare della Pasquetta, perché noi della Congrega, cosa avete fatto una fotografia, di bello? Ogni anno andiamo con cesto, le due mere vendone mi segue. Chi sono le dottose che si veste da Revendona? Come... Specifichiamo la Congrega, perché ne esistono alcune, e diciamo questa congrega invece è la congrega, questa è la congrega per il recupero delle tradizioni trevigiane, lo diciamo per i pochi che non lo sanno, ma ormai i pochi esterni al nostro mondo. Ci sono due donne che le chiamate le Revendone, e donne di campagna che andavano a mano a fare cose, e si veste da Befana il giorno della Befana. E andiamo siamo qua a scuola, abbiamo fatto il giro dei giostri e tutte le cose, e dopo si veniva un nane dei occhi, che è quello che era assieme a loro il carnevale, insieme a quel gruppo folcloristico, e facciamo colorire le uova e andiamo dai negozi da Studio Mio da Piazza Trentin fino alla piazza, andiamo sui negozi e chiediamo alle tose, cioè ai servienti, e anche chi delle donne, però solo donne, le uova del Pasqua, insomma. Ma siamo arrivati fino al Corso di 300, al bar del Beltrame, cioè, abbiamo fatto una foto una simpatica, una simpaticissima tradizione, difatti, giusto. Gentilini che ne ha visto, e ora dopo che mi avevo un nome, dice, guarda, ieri mi era al bar dei Fanoli, vicino alla farmacia di Opomi, dice, guarda che si va a tor dei uovi dal Becker, da Piazza Vittoria, Cadaveo, 2 euro si è Giorgio, anche quello si chiama Giorgio, sì. Da Giorgio si è uovi, 2 euro. Domani qua che ne voglio 20, corrai. E lasciamo per domenica di Pasqua, insomma. Quindi Pasquetta siete andati... Pasquetta l'abbiamo fatta, si va a Cornuda una volta, si andava in bicicletta. Mi ricordo, in bicicletta. A Cornuda. Adesso che sono i ciclisti matti che corrono in bicicletta a corsa, che ogni tanto che ne sparisce uno. Una volta la città una di volta si andava via. Si andava tranquilla, esatto. Tranquilla e basta. Oppure si andava a San Giuseppe, questa come si andava a piedi fino all'aeroporto, perché passava gli aerei. E si andava su Moncin o a Moncio al Moncin. Mio papà giocava i bocci e noi andavamo Bagigi e Fenoci. Magari il tempo era migliore. Ma sempre, però. Ma se ne avanti, eh? Adesso non si sa più niente. Più che il tempo, i tempi forse erano migliori, nel senso molto più semplici, molto più... No, ma anche il tempo meteorologico era migliore. A San Giuseppe voglio dire, la compagnia nostra di Treviso, andiamo, cominciamo ad andare a Jesu, il giorno di San Giuseppe, andiamo verso l'appartamento. E, sì, perché erano giornate affittato con tutte le feste che facevo, con i cavalchini dei studenti. E avanti per Cristo. No, sì, quest'anno è stato veramente un marzo anche tremendo, veramente pieno di pioggia. Sì. Ma probabilmente non c'è più quella, come dire, solo la congrega, quell'entusiasmo per riportare in auge questi eventi che sono fondamentali. Le tradizioni che si perde, e dopo se te parli dici, non lo sa, bambini non sa neanche cosa che sia un animale, una oca. Assolutamente. Dobbiamo portare anche la tocca e la varda, queste cose qua. Sì, sì, oggetti strani. Una volta crescevano in campagna e conoscevano tutte le specie di galline, di oche, di anitre. Tutto da ciacchino, dal maiale, insomma, dal porcel. Barba porcel. Però è veramente un peccato perché adesso c'è solo tecnica. Sì. Quindi non... Vorrei così buttare là un sasso, perché il sasso è rugby, è rugby. Oh. È un po' pesante. Anche perché ma, momenti proprio particolari. Strani, un po' controversi, ma vorrei partire prima che mi telefona il giornalista, vuoi sapere cosa? Non mi trova. Telefona un'altra volta, non mi trova. Terza volta, mi trova. Cosa pensi di tutti? Non so di cosa, non so niente. Vogliono portare la squadra del Benetton Rugby Treviso a Roma. Il presidente della federazione dice che la Benetton deve andare a Roma. E mi ha detto, guarda che c'è un scarso aprile, siamo a vigilia del Pasqua, è lunedì, è il primo di aprile, c'è un scarso di aprile, l'ha anticipato. No, te dico mi. Oppure abbiamo un presidente insulso, ebete. Non sa neanche cosa sia rugby. Il rugby vive in Francia, territorio. Nei villaggi, nei cittadini di città, è sempre morto a Roma e a Milano. Il rugby è sempre Calvisano, morto. Calvisano, Via Dana, ma altri che Casale, paese, Villorba, Mogliano, chiamo dappertutto, che mi ha fatto Conegliano, fatto dappertutto. E contemporaneamente a rugby abbiamo sentito che il Vinicio, quello che era il nostro cuoco della casetta là, che andava da mangiare, sì, tristissimo evento. Brissa giù da una gru, è morto, insomma. Vinicio Artuso. Vinicio, sì. Mi spiace perché era uno così che ci salutava sempre, che ti serviva sempre. Non era un servitore, però lo spirito di servizio, spirito di darte quello che volevi, ti chiedeva tutto, ti dava tutto. Però con rugby voglio ricordare un altro mio amico Franco, che è il fratello del altro giocatore di rugby, che si è Gasparà, gestiva il ristorante Franco, del conosciuto del io, mamma mia, lo conoscevo bene. Non volevo interrompere, diciamo che ci sono anche ci state recentemente degli eventi straordinari da un punto di vista delle... Sì, ma soltanto perché è straordinario, perché la banca che ha chiuso il fido che aveva. Parlavo proprio dell'evento da un punto di vista dell'evento sportivo. Proprio nei confronti dell'Irlanda. Comunque Franco era una persona molto gioviale, andavamo spesso, andiamo spesso a mangiare lì. Sì, suo fratello, siamo andati una settimana, dieci giorni fa, siamo andati in 28, mi facciamo una raccolta, andiamo là, detto, vieni qua da me, e siamo andati là, prima ne seccava anche perché ridemo, scherziamo, non si sa mai cosa, come però comportarsi. Lo spirito è quello. E martedì scorso siamo andati ancora, adesso che diremo una volta al mese, il martedì, una volta il primo del mese, andremo ora al tantam. Noi siamo andati, anche noi forse una settimana fa siamo andati a mangiare. Beh, ci interrompiamo un attimo per una canzone, questa volta ricordiamo Franco Califano. Bene. Con La mia libertà. Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. Di quelle, ma è bella e stasera ti va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Ed eccoci di nuovo in studio con l'amico Giorgio Fantin per un altro excursus nel glorioso mondo del rugby trevigiano. L'excursus intanto penso che mi sentirà anche la mia nipote, perché l'altra volta mi ha risentito. Ti ho sentito parlare. Così mi piace. Potenza della radio, che è una cosa straordinaria. Dove vai oggi? Vado al terzo piano a casa Toniolo. Perché vado a parlare al microfono e radio. Questa sera parleremo di rugby. Bene, il gatto di Tonga Quirossa. A proposito da rugby sempre, che è una cosa anche, ecco, che abbiamo parlato, che ci siamo trovati anche ogni martedì del mese, così faremo queste cene, proprio anche per trovarci fra noi, non soltanto per dare una mano, un aiuto morale a chi insomma sa, certo, anche, certo. Anche lui lo sta volentieri con noi e si può ridere, ma stiamo bene assieme noi qua a Treviso, perché il Treviso va bene, gioca bene, mantiene tutta la partita fino all'ultima adesso e vince come vince l'Italia. L'Italia è riuscita a vincere contro la grande Irlanda. Esatto. Perciò dobbiamo dire sì, l'Italia comincia anche lei a tenere adesso fino alla fine e si può essere alla pari. La tenacia e lo spirito di andare avanti. Tutte le partite quest'anno sono state a livello, vincere o perdere sempre facile, non si sa mai, certo. Ma si potevano anche vincere. Quindi straordinario, anche con l'Inghilterra mi pare. Anche con l'Inghilterra abbiamo fatto una bella partita, erano un carri armato. Sì, era uno squadrone, insomma. Però dico rispetto a qualche anno però fa. Però noi non abbiamo che... giocato tanto bene, abbiamo giocato sì, ma il primo tempo abbiamo giocato male. Insomma. Invece con l'Irlanda è stata una apoteosi, una cosa meravigliosa. E adesso vedremo questo stadio nuovo come verrà fatto, come verrà fatto, non lo so. Sta di fatto appunto che c'è questa tentazione di, che appunto non, probabilmente non tiene conto, anzi sicuramente non tiene conto del fatto dell'abbinamento, dello stretto abbinamento tra rugby e territorio. Ma a Parigi c'è lo stadio per le partite internazionali della Francia. Ma tutte le squadre francesi dei Pirenei, Esili, sì. Sobborghi, Chambéry, Grenoble, tutte nei Alpi, tutte rugby, di village, che chiama, village, lo sport del villaggio. Del villaggio, sì. Lo chiamano in Francia. E qua anche noi altri, Treviso, ma dove lo farebbero qui lo stadio della Rugby? Noi qui a Treviso ce l'abbiamo uno, ma tiene 7-8 mila persone. Insomma, pochi rispetto alle competizioni internazionali. Mentre che a Roma, adesso allo stadio olimpico, che ne aveva 80, c'erano mi pare 75 mila persone. Una cosa, insomma, incredibile. Sì, sì. Ma d'altra parte, rugby, dove se hai la mamma e il fidanzato che devi esatto, un mondo a parte rispetto al calcio, sì, vengono le famiglie a vederti, sì, esatto. E perciò non arrivano a Roma per vedere l'Italia, vedere il Treviso sta bene qua nella sua città. Faranno che facciano una squadra loro e basta, dei aquilani, dei laziali, dei romani, Catania. In modo che siano più collegati al territorio. Tenere questa forza che abbiamo qua. Direi di sì, perché altrimenti... Il Presidente ha decisamente negato questo approccio, insomma, ma vediamo cosa succede, insomma. Sì, parlate anche del Viadana, la Viadana è un paesotto della provincia di Mantova. È un altro circuito. Non vedi neanche la strada per arrivare, bisogna passare un fossetto. Sì, adesso no. Il ponte di barche di Viadana, mi ricordo ancora i tempi di Guareschi, di Don Camillo. E io l'ho fatta proprio anche con la barchetta ad attraversare il Po. Da Guareschi mi passavano, andiamo a giocare a Parma, una volta si era svegliato a Saltorato. Dove siamo? Qua sul Piave, no? Guarda che se non siamo sul Piave, siamo sul Po. Una volta si andava con la barchetta e è tutto un ricordo di persone straordinarie, di tempi anche diversi. Proprio francamente, non riesco a mettere assieme, diciamo, una visione dell'epoca con questa che stiamo vivendo. Sono tempi diversi. Io, per esempio, ho fatto il servizio militare in polizia, nel pubblico, e hanno fatto una bella vita, devo dire sinceramente, no? Noi eravamo alla sera tutti in borghese e anche gli altri poliziotti andavano via in borghese per merito nostro. Prima delle Olimpiadi è venuto Berruti, Mazza, Lievore, tutti quanti siamo stati insieme, della grande amicizia, e noi abbiamo dato tanto la nostra amicizia. Adesso, del giorno 20 vado a Roma, perché se troviamo a Milano e Treviso, a Roma, da un amico che compie 80 anni. Ci sentiamo sempre. Straordinario. Sempre con l'amicizia. Gli amici di nostri, quando sono arrivato a casa, i miei amici di scuola, li avevo persi, perché un'altra mentalità era, si sapeva tutto dei nostri. Invece qua, vivendo assieme, andando a letto assieme, tu sapevi già altre storie. E uno era pecoraio, un altro era dall'Abruzzo, un altro era da Palermo, uno da Roma, uno da Milano, e siamo amici ancora, insomma. È bello però conservare questi amici. Sentimento, anche le nostre mogli sono contente. Ma è decisamente un mondo di... Il rugby è un mondo a parte, il terzo tempo naturalmente di cui si parla. Ci unisce. Sempre le solite storie, ma... anziché essere fazione, anziché essere come nella degenerazione del calcio, eccetera, qui c'è proprio questo spirito di amicizia. Ci si scontra, ci si scorna, ci si batte, ci si fa male, ci si fa anche male, però sempre in spirito di competizione leale. È un momento di aggregazione veramente valido. Sì, l'aggregazione, a proposito, vi do una notizia in anteprima, non so anche se posso dirla, perché magari mi sente a Prando Prandi e mi sviderà. È il nostro presidente dei veterani sportivi, insomma, siamo l'Unione Veterani Sportivi. Noi a Ponzano Veneto abbiamo trovato l'ex sede di una scuola elementare, ci danno tutto l'ingresso e facciamo il museo della fotografia sportiva di tutti i nostri campioni trevigiani. Questo mese faremo un'inaugurazione, non vedevo la data, perché è il 20 aprile. Però è una cosa decisamente meritoria. Cominciamo da Tenni, perché Bozzolo, che avete mille fotografie bellissime, Peire, Bozzolo, ma è tutto. Tutto lo sport, anche la figlia del nostro che giocava a pallacanestro, di tanti campioni dei nostri, anche del rugby, ma anche la pallacanestro è un bello sport, che il pallacanestro anche femminile, maschile, Bortolozzi, che ancora da vecchiotto fa tutti i campionati poster over 75 over 75 e comunque c'è tante fotografie che dopo faremo, perché il museo, parola museo lo odio io. Lo vedi una volta, dopo non vai più. Museo, deve essere una cosa viva, da polvere. Da polvere. Invece faremo un percorso interattivo. E poi dopo cambiamo, perché sono fotografie, perciò le possiamo cambiare con pannelli. E diamo, facciamo tutto un tema di ciclismo, per esempio, da Grosso. Perfetto, una cosa monotematica tipo. Questa è una bella notizia. Ma... sì, perché vivacizza da memoria senza, diciamo, far cadere la polvere su queste cose qua. Comunque... per forza è bello, insomma, siamo impegnati a farlo e ci costa anche tempo, ma si fa volentieri, insomma. Sì, almeno poi si ha soddisfazione di aver fatto qualcosa di bello, di costruttivo. Qualcosa che rimane. Che rimane nel tempo, insomma, perché altrimenti bisogna pur lasciare qualcosa ai nostri... alle generazioni future, no? Infatti. Ma adesso, perché lo vogliamo farle anche entrare anche nelle scuole elementari, di far capire, di far fare qualche temina, chi si ottenni? Che Beppi Moro, mi ricordo, ero elementari, in via Tolpada, e ricordo che una volta il Treviso che ha perso tanto a zero contro a Lucchese, perché gli parava i rigori Moro, no? Beppi Moro. Beppi e i cacciapas sette gol. Però... e mi era un idolo, cioè era il nostro idolo Moro, insomma. E mi ha dispiaciuto tanto così. Disillusione. A volte succede che magari una persona che tu ammiri, che poi dopo ti... sì, no, è quello lo sportivo invece cioè, giocare contro l'Inghilterra e parare un rigore e acciappare un gol solo contro l'Inghilterra, che era squadra forte, Beppi Moro, insomma. Quindi personaggi proprio di spicco. Da ricordare, Tenny, mio ricordo. Uomo buono, Tenny. Mi ricordo sui circuiti, ma mi portava la palma, ero piccolo, sapevo che queste moto che correvano, ero buono a individuare. I tempi eroici. I tempi eroici. Quando senti che è morto Tenny, è morto anche là, un'altra personalità. Un'icona dello sport, eccetera. Nel 53, sport... poi 54 se non mi ricordo. Però, è come quando c'erano ancora i nostri ciclisti che... o nel 40, per sbaglio mio, forse prima, nel 47, non mi ricordo. Proprio nel dopoguerra, insomma. Nel dopoguerra, comunque, insomma, è bene. Ed è contemporanei dei ciclisti di Bartali e Coppi? Negli anni 50. Mi portavo per Bartali, anche se Coppi diceva che era più bravo. Ma era simpaticissimo, tutti e due erano... comunque grande. Allora ci si teneva tanto. Una gazzetta dello sport che Bartali è maglia rosa, maglia gialla nel Tour, e era stato Togliatti famoso l'attentato di Pallante, mi ero al mare piccolo così e l'avevo mandato a Bartali e gli avevo mandato un biglietto, grazie Bartali. Gino, ma deve essere stato un tipo abbastanza socievole, penso, Bartali. Apparentemente no, dopo era socievole, mi hanno detto. Scorbuti con Toscana. Infatti si seguivano tante queste storie, anche quella di Coppi. Bene, ci fermiamo per un'altra canzone e questa volta andiamo proprio una canzone modernissima. Ci ascoltiamo, come si chiama? Max Gazzè, perché sono nuovi. Max Gazzè. Con la canzone Sotto casa. Ah sì, Max Gazzè. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi umini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io, che nasce sempre il sole dove cerco Dio. con tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta in quella broda e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. E poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio di chi vendette onore per denaro e ora nel cuore metto un muro. Eccoci di nuovo in studio con il nostro Giorgio Fantin, che ci parlerà un po' delle feste che ci sono qui in aprile, vero? Ah sì, le nostre feste, che importanti, anche questa è sempre tradizione, certo, ormai. Certo. Sarà, quest'anno c'è la festa di Giorgio, come ogni anno. Il 23 aprile? È già 25 anni, penso 26 anni che la facciamo. E come 26. La fate? Allora, eravamo, facciamo ancora un anno da Giorgio Schiavon a Falciani di Trevignano e un anno da Giorgio Procida a Spercenigo. A Spercenigo, famoso e Procida. Lo ripetiamo, Giorgio è morto, ma Andrea ci aspetta, quest'anno tocca a lui, perché l'anno scorso... Ah, quindi è una alternanza, sì. Perché i gruppi di Giorgio diventano anche abbastanza vecchiotti ormai. Numero ci si trova sempre la cinquantina, come moglie, insomma. Sì. Ma poi facciamo una gita fuori. L'anno scorso però non sono riuscito a farla a Bologna, perché non so se ma che costava magari più, non so, insomma, non abbiamo una ventina solo e io pensavo 45, certo, insomma, per muoversi con pullman, insomma. Quindi minimo. Oltre alla rimpatriata, diciamo, gastronomica, anche la gita fuori porta. Ma la fuori porta quest'anno la facciamo, l'ho concordata con Eugenio Manzato, che abita a Quinto. Andiamo nella chiesa di Quinto, che c'è San Giorgio, il protettore della parrocchia. Andiamo a Bisate, a Bisata da Righetto. Adesso manca sarà, ma poi sì, manca là. E poi lui ci porta a Santa Cristina, dove c'è la Pala del Lotto. Sì. E ce la racconterà e poi andremo a mangiare, se era Righetto andremo a mangiare Righetto senz'altro, ma andremo a mangiare dall'Antonietta là a Quinto e Righetto Manzato viene con noi e stiamo assieme con Giorgio, marito, moglie, figli e nipoti. Tutti Giorgio. Dopo io ho fatto un certificato di nascita perché ho copiato al comune, ho scancellato Treviso, ho messo cosa di Giorgio, do un timbro, ti chiamo, cosa ti chiami Antonietta? Giorgina Antonietta e timbro, mi firmo a me per tutti. Io battezzo tutti i miei. Quindi questa è una tradizione che non ha niente a che fare con la congrega per il No, ma anche questa è una tradizione, giustamente, nel solco proprio della questione, giustamente. Però invece questo 23 e 25 facciamo il giorno di festa a San Marco, allora facciamo queste due cose, insomma. Mentre il 27 con la congrega facciamo la salita di San Liberale, che è il nostro patrono di Treviso. E lo fate lì a San Liberale? No? Nella piazzetta del Battistero, insomma, sempre ogni anno. E vengono anche tutti anche i pittori, i poeti a parlare. Ecco, questa è una cosa che appunto io ricordo, è molto, molto interessante. Mettiamo fuori dei quadri, perché abbiamo fatto anche delle volte delle gare per pittori. Ma poi alle 5-6 di sera arrivano i poeti, declamano le loro poesie e dopo un bel risotto che Zanco ne porta di quindi ecco. Naturalmente il lato gastronomico non manca mai. Tradizione ottima. Questo è il scusa, chi è che lo fa risotto? Ai Domori oppure alla Colomba Renato. Sì, beh, sì, questo è come dire, io sono sempre stato curioso della questione. Questo è limitato ai cultori della tradizione o è aperto anche? È aperto a tutti, è aperto a tutti. Vengono, assaggiano qualcosa, cioè, fanno un'offerta, quello che vogliono, si mangia e si beve. Un'offerta libera. E faremo forse, anzi domani. Anche un premio di San Liberale c'era, perciò San Liberio vorrei fare come congrega, per premiare, riconoscere un riconoscimento a dei trevigiani sconosciuti, ma volontariato, ma quelli più veri, insomma. Giustamente, insomma. Quelli che non hanno riconoscimenti, diciamo, sì, ufficiali. Il Battistero, ci dà il Battistero, lo faremo l'anno, sì, questa è una situazione decisamente da incentivare, anche perché... quelli che si danno da fare molto in genere sono anche restii ad avere visibilità, sì, eccetera. Se non c'è qualcuno di sensibile praticamente al questo, e mi pare che ce ne siano molti qui da noi in particolare. Ne abbiamo personaggi, chiamiamolo così, fra virgolette, perché ma ne abbiamo, sì. Quindi premiate uno di questi, insomma. Quello che mi dice, ne vorrei premiare 10, mi dico tre esenca massa, dopo vedremo, insomma. Quindi andrete a estrapolare, diciamo, personaggi che nel loro ambito hanno fatto qualcosa che nel loro ambito sono personaggi. ma non sono conosciuti, sono trevisani, ma no, può essere anche un nome, Franco Crespano, può essere, certo, esattamente, si dà da fare con lo spirito senza vero, pretendere del volontario, e senza prendere soldi, perché bisogna sempre metterne. Sabato, mi pare. Chissà che faccio un saltino, sono di vicino. Questo, dalle 10 alle 6 di sera siamo. Ah, alle 10, allora. Ecco, bisogna, ecco, queste sono iniziative che hanno una visibilità, diciamo, visibilità nel trevigiano, però meriterebbero ancora maggiore visibilità. Per esempio, riprendendo parti della manifestazione. Quando si mangia, quando arrivano i poeti, eccetera, fare una selezione, chiamare qualcuno che possa registrare, fare una selezione di queste, perché merita, l'idea è perché merita, perché altrimenti si rimane nell'ambito della tradizione, ma non ha visibilità dal punto di vista, dinamico. Cioè, diventano un po' come le foto ingiallite e cose questo tipo. Il movimento è fondamentale per trasmettere proprio questo dinamismo, questa cosa. Non so se siete d'accordo in questo. Sono d'accordo, perché non so quello che va in cerca delle cose, però che vuole ricordare la tradizione. Resta nella memoria. Vediamo se ci dà anche il Battistero, che le vorrei fare tante cose anche là, insomma. Perfetto, e comunque sono sempre cose che vanno, come dire, registrate, secondo me, registrate in qualche modo, ma anche dei brani, dei brandelli così di fasi in movimento, cioè mentre si mangia o mentre il poeta declama o mentre il pittore dipinge, cose di questo tipo. Secondo me aggiungono sicuramente anche il momento delle premiazioni, anche, no? Avete anche delle premiazioni. Sì, diamo questo riconoscimento. Sì, ma anche quello San Liberale, avete il premio San Liberale, no? Non è, perché si chiama già San Liberale, ne parleremo appunto domani, lunedì ne parleremo, perché come impostarlo io direi San Liberio. In modo che dia io intanto non voglio disturbare nessuno, vedremo insomma. Sono sempre cose bellissime. Sono cose che hanno, sono meritorie, perché danno appunto la memoria, è qualcosa che di molto labile, che siamo sempre sul punto di perderla, e quindi a maggior ragione dobbiamo tenerla ben stretta. Certo. E qui siamo arrivati proprio un po'... dicendo che sì. Siamo arrivati. Stiamo arrivando appunto qui. Per quanto tempo abbiamo a disposizione, sempre troppo poco. Comunque con Giorgio Fantini è sempre una cosa estremamente piacevole. Ci sarà presto un'altra occasione, certo, noi ci contiamo e contiamo sul suo entusiasmo. Poi ha già detto di sì e quindi non può più ritirarsi. Mese presto, mi sono già qua per domani. Va benissimo, allora così non ci resta che ringraziare che anche per tutte queste iniziative eccetera che sono meritorie decisamente. E niente, per l'entusiasmo. L'entusiasmo è fondamentale, perché vediamo tutte queste musonerie in giro. Niente, entusiasmo è fondamentale. Sì. Allora, caro architetto, la ringraziamo tanto e l'aspettiamo. Alla prossima volta, molto. Naturalmente. Grazie, arrivederci. E Antonio, non ci resta altro che ringraziare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori per la pazienza che hanno sempre con noi. E alla prossima volta. E io dico sempre, come sempre, un bel ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.